America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. We have a big announcement now from the White House. President Obama expecting to make a historic trip to Cuba next month. The first sitting president in more than 80 years to visit that country. Barack Obama annuncia che andrà in visita a Cuba. Era dagli anni 20, mi pare addirittura dal 1928, che un presidente americano non si recava a L'Avana. Una visita dunque doppiamente storica, non solo perché avviene dopo la grande rottura successiva alla Baia di Porci, successiva all'ingresso di Castro e al comunismo, successiva alla grande freddezza tra Stati Uniti e Cuba, ma perché anche ben prima di questa rottura un presidente americano non si era recato in territorio cubano. C'è già una data, il 21-22 marzo, è una delle notizie che domina anche nel contesto della campagna elettorale. E arriviamo alla grande notizia del giorno, e cioè che il Papa Francesco, è entrato a gamba tesa nella campagna elettorale americana. Devo dire, è una campagna elettorale, ve l'ho detto più volte, densa di suspense, drammatica, con una serie di episodi imprevedibili. Ecco, scende adesso in campo anche Papa Francesco contro chi? Contro Donald Trump. E devo dire, beh, in qualche modo giustamente, perché è stato Trump a cominciare la polemica. Sentiamo Papa Francesco ieri. Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Questo non è nel Vangelo. Ecco, avete sentito una dichiarazione molto chiara, quella di Papa Francesco: Trump non è cristiano, quel che vuol fare è contro il Vangelo. Perché è importante questa dichiarazione? Perché arriva alla vigilia del terzo appuntamento elettorale, cioè le primarie della Carolina del Sud. A questo punto, vi dicevo, elezioni bizzarre, difficili, complicate, cariche adesso di elettricità sconosciuta, perché non era mai successo nella storia delle elezioni presidenziali americane che un Papa potesse giocare un ruolo così importante, in questo caso contro un personaggio particolare, che è un personaggio materialista, uno spaccone. Ecco, e da ieri è anche anticristiano. Come finirà? Beh, lo sapremo domani dal voto evangelico della Carolina del Sud. Perché voto evangelico? Perché una gran parte della popolazione è cristiana, nel senso lato del termine, non cattolici, born again Christian, evangelisti appunto, e dunque si dovrà capire come prenderanno queste persone e questa posizione del Papa, visto che loro nella maggioranza, per oltre il 30%, sostengono la candidatura di Trump. In nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, siamo a uno degli elementi chiave di questo viaggio che credo abbia in qualche modo ispirato il Papa, perché è stato un episodio molto toccante, la messa a Ciudad Juárez, che è quella parte della città di El Paso messicana. C'è un confine che divide la città, la parte americana si chiama El Paso, l'altra parte si chiama appunto Ciudad Juárez, e il Papa era al di qua del confine, era in Messico, però ha portato un messaggio attraverso schermi giganti in uno stadio, ha portato un messaggio in questo stadio a decine di migliaia di immigrati illegali sudamericani, latinoamericani, diciamo, negli Stati Uniti di America. Il Papa li ha benedetti. È stata, devo dire, una delle messe più commoventi celebrate dal Pontefice, perché, pensate, quando c'è stato il momento della benedizione in questo stadio, c'era un silenzio quasi mistico. Ecco, cerchiamo di capire allora il contesto di questa cosa, perché in effetti Donald Trump vuole creare un muro, non solo vuole costruire questo muro lungo il confine con il Messico, ma vuole deportare i 12 milioni di immigrati clandestini latinoamericani che vivono negli Stati Uniti. Ecco, tanto di per sé questa è una proposta impraticabile, perché immaginate fare retate di 12 milioni di persone per poi rimandarli indietro. Per non parlare poi del danno economico, perché questi 12 milioni di persone lavorano, molti di loro pagano le tasse, sono integrati nel sistema. Ecco, però Trump è andato ancora più in là, si è reso conto che questa sua strategia dell'insulto funziona, e dunque ha insultato i messicani in America, li ha chiamati ladri, delinquenti, trafficanti di droga, assassini. Ecco, direi che per Francesco il troppo è troppo. Tra l'altro, enough is enough è lo slogan proprio di Donald Trump. E dunque, dopo aver celebrato questa messa, beh, c'è stato questo suo attacco. Ecco, devo dire che Trump certamente non è il tipo che si perde d'animo. La scomunica teorica per lui, fedele della Chiesa anglicana, non lo preoccupa troppo. E come al solito, che ha fatto? Ha giocato al rialzo. Sentiamo. For a religious leader to question a person's faith is disgraceful. I'm proud to be a Christian, and as president, I will not allow Christianity to be consistently attacked and weakened. Ecco, adesso abbiamo Trump che insulta il Papa, perché dice che un religioso si permetta di mettere in dubbio la fede di una persona è una disgrazia. Quindi è un attacco diretto al Papa, anche direi piuttosto violento. A quello ha aggiunto il fatto, alzando la voce, come avete sentito, in cui dice: beh, io non solo sono cristiano, ma difenderò i cristiani che oggi sono sotto attacco da parte di estremisti islamici. Nessuno fa niente, io sarò quello che difenderà il cristianesimo. Altro che non sono cristiano, lo sono. E come? Ecco, ci sono qui conseguenze di vario genere da questo scontro. A breve non credo che succederà granché nella Carolina del Sud, dove, vi dicevo, la popolazione è soprattutto evangelista, non è cattolica e magari si identifica con le idee di Donald Trump. Ma l'aspetto più importante di questo intervento del Papa, di questa sua missione pastorale in Messico, sarà un'altra, sarà quella, io credo, di mobilitare il voto latinoamericano, che è un voto svogliato, è un voto assenteista, non c'è mobilitazione per andare a votare. Ecco, nel momento in cui la scelta diventa chiave, perché c'è la minaccia di deportare 12 milioni di persone, di costruire un muro, allora a quel punto, soprattutto con la leadership del grande pontefice amatissimo in Messico, io credo che i latinoamericani immigrati legali e dunque con diritto di voto potranno a un certo punto cambiare l'ago della bilancia in queste elezioni americane. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato della Carolina del Sud, a questo punto il voto, che era già molto importante, lo diventa ancora di più dopo la sfida del Papa a Trump: non sei cristiano. E dunque dedichiamola alla Carolina, la canzone del giorno, con un classico meraviglioso di James Taylor, Carolina in My Mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's the silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying. Sky's on fire, I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.